scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola per un nuovo appuntamento con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti dello spettacolo. La voce in scena di oggi è quella di un gruppo tra i più amati in Italia. Si uniscono come band alla seconda metà degli anni Ottanta sotto lo pseudonimo degli Inudibili. Nel 1992 incontrano il produttore Fabrizio Barbacci, che decide di metterli sotto contratto con il loro nome definitivo, che è anche il titolo del loro primo album nel 1994 con il singolo Cambio. Nel 95 il secondo mini album Paradisi per Illusi, poi XXX con un tour di 6 mesi tra club e stadi da supporter per Ligabue. Seguono altri album come Reset, Radio Zombie, nel 2003 il Festival di Sanremo dove arrivano terz'ultimi con Tonight. Nel 2005 l'album L'Uomo Sogna di Volare che vende oltre 100.000 copie, poi Eldorado e Dannato Vivere. Nel 2014 partecipano al musical Jesus Christ Superstar al Sistina di Roma. Nel 2015 esce 9, il nuovo album di inediti. Abbiamo incontrato Pau MacDrigo per parlarci di 9 e dei Negrita. Come viviamo? Viviamo da, purtroppo, da adulti. C'è questo piccolo dettaglio che mi indispone un po', perché siamo tutti pari di famiglia e quindi abbiamo dei bambini con tutte le responsabilità accessorie. E va benissimo, perché penso che, perlomeno io parlo per me, ma penso di parlare anche per loro. A un certo punto devi comunque capire che il mondo deve continuare e ti devi dare il tuo contributo, ed è una, sai, io sono maschio, mia figlia è femmina e quindi l'innamoramento è matematico ed è una delle cose più belle della vita. Unitamente a questa esperienza fantastica che è la paternità, c'è un altro tipo di paternità che è quella che te dai a tutto il lavoro che riguarda la musica. Continuiamo ad avere i sogni di gioventù veramente tirati per i capelli, perché sono sogni importanti, e quando i sogni in qualche modo si diventano materia, perché si realizzano, non puoi fare altro che continuare su questa strada, assecondarli, cercare di farli con una, riallaccio all'inizio, con un po' di maturità in più, però sempre lasciando quel lato bambino acceso sull'on, insomma, sempre attivo, perché altrimenti l'indurimento caratteriale, mentale è dietro l'angolo, e questo è un pericolo da evitare come la peggior malattia. Comunque sia, noi come genitori, io esco ora da una separazione che è un'esperienza. Ma entri in una separazione, più che esci. Sì, in effetti ne sono dentro ancora. E, ci si rende conto, date anche le ore che dedichi sia ai bambini che al lavoro, che fa parte della nostra missione entrare per 3 minuti e 50 nella vita di milioni di persone, perché quando tante radio trasmettono il tuo pezzo raggiungono milioni di persone. Anche questa è una grossa responsabilità, soprattutto in tempi in cui il malumore serpeggia ovunque. Quindi la responsabilità è, se vuoi, è molto grande. Manciata di canzoni, la vita è un uragano. Pioggia di colori negli occhi di tuo figlio, rivedi la tua infanzia, distese di conquiste e ceri di speranza. La vita è un uragano che ci strappa le vele, un'autostrada. E parlato del malumore di questi tempi, lo avete affrontato ad esempio anche in mondo politico, ma anche in tanti altri testi, come ad esempio quello di Poser? Avete... Ma anche sull'eutanasia del fine settimana, alla fine, certo, nonostante certo. sia nascosto dietro ai neon e al buio della notte. C'è un po' di disagio nei confronti di come è stata l'evoluzione del mondo attorno a voi da quel 1989? Guarda, hai colpito nel segno, secondo me, perché 1989 è esattamente un pezzo che dice questo, che il mondo sta cambiando. E per noi stava cambiando, speravamo in positivo, perché comunque siamo stati fortunati e viziati dal fatto che essere cresciuti negli anni 80 è sinonimo comunque di benessere. Insomma, le nostre famiglie, non al contrario di magari le generazioni dei nonni, i nostri genitori non hanno vissuto la fame, anzi tutt'altro. Negli anni 80 comunque molta Italia si è arricchita, insomma, perlomeno ha visto entrare il benessere vero, ma anche il surplus all'interno delle proprie case. Quindi è vero che in quegli anni lì, cioè, noi siamo una generazione viziata, molto viziata da questo, e che pian piano, attraverso non tanto gli anni 90 ma quanto gli anni 2000, gli anni zero, non so come si dice in italiano, non lo so, ha visto pian piano sfumare tutte le sicurezze che si erano accumulate, diciamo, negli anni 70-80, negli anni 70-80. E questa cosa è grave, perché deprime. Se c'è qualche mente più fragile di altre, può essere soggetta a questo, all'insicurezza, alla depressione, alla paura, perché poi tutta questa paura si è manifestata in qualcosa di concreto. Insomma, una crisi vera è arrivata, è una crisi che quasi nascondiamo sotto il tappeto, perché molti si vergognano di manifestare la propria povertà, diciamo, ottenuta invece da una situazione in cui stavano meglio. Ed è l'aspetto più triste, secondo me, vergognarsi di non avere le possibilità economiche per arrivare in fondo al mese è ancora peggio che l'essere poveri, insomma, il vergognarsene, perché non c'è niente di cui vergognarsi. Insomma, è un mondo, a parer mio, perlomeno, che ha raggiunto il suo apice qualche anno fa e adesso è in pieno inizio di decadenza. Non credo che questa crisi sarà mai risolvibile, insomma. È molto importante l'utilizzo delle parole e i significati delle parole che usiamo. Ad esempio, la parola crisi, inconsciamente, secondo me, questa è una cosa di cui mi sto convincendo, ci sta confondendo. Questa non è una crisi, questa è una trasformazione. Crisi significa che siamo, come tra virgolette, ammalati, e presto torneremo come prima stavano le cose. Le cose non torneranno come stavano prima, le cose si stanno trasformando. Bisogna cominciare a vedere i tempi di adesso come un momento di trasformazione. Se si continua a parlare di crisi, si continuerà ad aspettare di tornare a come erano prima le cose. Ma gli anni 80 sono stati un boom di follia pura. C'erano ragazzi che venivano al liceo con una Mercedes a 18 anni ed era da vergognarsi se non avevi una macchina di quel tipo là. Oggi tutto è veramente... Quindi ti sei vergognato sempre. Oggi veramente tutto è cambiato, le cose non torneranno come prima. Bisogna vedere, secondo me, utilizzare una parola diversa. Questa è una trasformazione. Giorni di velluto e poesie, disastri e utopie. È una da quando la conosciamo, è un insieme di picchi, alti, bassi, di colpi di testa, di invenzioni, di idee geniali, di idee fallimentari che hanno fatto morire anche milioni di persone. Però l'umanità non appartiene a una griglia, non potrà mai appartenere a una griglia. È per questo che noi, credo anche inconsciamente, in qualche modo abbiamo voluto recuperare un certo tipo di musica verità, una musica verità che forse ci serve, per riallacciarmi a quello che diceva Drigo, a una seconda fase, insomma, alla fase, diciamo, della trasformazione. Dobbiamo riappropriarci delle basi vere per poi avere una sicurezza successiva che ci porti ad avere quindi anche un futuro dignitoso e decente. I testi sono di solito ovviamente un dialogo, perché si canta parlando con qualcuno. In Poser voi sentite la responsabilità di parlare anche non solo ai vostri coetanei, ma anche al pubblico più giovane che comunque vi segue e comunque dovete, cioè, quasi parlaste con delle generazioni che parlano una lingua diversa? Sì, alla fine sì, insomma... forse qualcuno della nostra generazione non sa neanche cosa voglia dire poser, e quindi è ovvio che forse ci riferiamo alle generazioni successive. Ma il testo di poser, noi ci immaginavamo che avrebbe colpito in qualche modo, sarebbe stata una domanda classica a tutte le interviste, però vorremmo anche smitizzare la cosa, insomma è un testo piuttosto ironico, provocatorio, ironico. Noi siamo toscani, ci piace molto, insomma, mettere il dito nella piaga, esaltare il difetto dell'altro, prenderci in giro. Quindi l'ironia e lo stuzzicare, azzicchettare in dialetto, fa parte anche del nostro modo di essere, insomma. E quindi quando vedi delle storture che ti sembrano veramente un po' troppo esagerate, cerchi di sottolinearle. Su poser l'abbiamo fatto, però in realtà più che puntare il dito, questo poser lo punta verso qualcuno, lo punta verso uno specchio, perché alla fine l'analisi ultima, il messaggio, secondo me, quello che abbiamo voluto dare con il Cile, che è coautore del testo, è quello di in qualche modo dire: ok, io non sono un poser perché sono vero, perlomeno così mi sembra di essere, ma in realtà io sono un loser, perché la verità è che questi tempi comunque non mi appartengono e non mi apparterranno mai fino in fondo. Certe cose sì, le apprezzo, le stimo, le utilizzo, però con parsimonia, insomma, non entrare a capofitto in un universo che tra l'altro ti dà l'illusione di essere da te gestito, ma in realtà no, fa sì che gente invece della nostra età si metta automaticamente da sola in guardia. E quindi è in qualche modo un cercare di prendere le distanze dall'esagerazione, ma senza voler assolutamente vivere un altro tempo, assolutamente no. È tutto per questa puntata insieme ai Negrita. L'appuntamento è per il prossimo Voce in Scena domani alla stessa ora.